Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. La fede del signor Bibb nel celibato, così riservata, così accuratamente nascosta sotto la tolleranza e la cultura, ora salì a galla e si schiuse come un fiore delicato. Chi si sposa fa bene, ma chi non si sposa fa meglio. Questo asseriva la sua fede, e non gli giungeva mai all'orecchio l'annuncio di una rottura di fidanzamento senza che avvertisse una lieve sensazione di piacere. Nel caso di Lucy la sensazione era intensificata dall'antipatia per Cecil, e il signor Bibb era preparato a spingersi ancora più oltre, a mettere Lucy fuori di pericolo, fin quando non fosse stata in grado di ribadire il suo proposito di verginità. La sensazione era poi sottilissima e niente affatto dogmatica, e lui non la comunicò mai a nessuno dei personaggi implicati nell'intricata vicenda. Pur tuttavia esisteva, ed essa sola spiega la sua condotta successiva e il suo ascendente sulla condotta altrui. Il patto che concluse nella taverna con la signorina Bartlett non contemplava di aiutare Lucy soltanto, ma anche la religione. I gitanti si affrettarono sulla via del ritorno in un mondo di nero e di grigio. In giardino la signora Honeychurch, ora con l'aiuto di Freddy, stava sempre lottando per la sopravvivenza dei suoi fiori. «Ormai è troppo buio», disse sconsolata. «Ecco cosa succede a rimandare il da farsi. Potevamo prevederlo, che il tempo si sarebbe presto guastato. E adesso Lucy si è messa in mente di andare in Grecia. Non sa proprio in che mondo viviamo». «E in Grecia, signora Honeychurch, bisogna che vada», disse il signor Bibb. «Venga, saliamo in casa, ne parleremo con comodo. Prima di tutto, le rincresce che sua figlia abbia rotto con Vice? Signor Bibb, è un sollievo per me, un vero sollievo». «Anche per me», disse Freddy. «Bene, andiamo dunque». Confabularono in sala da pranzo per mezz'ora. Lucy non avrebbe mai attuato il progetto della Grecia con le sue sole forze. Era costoso e drammatico, due qualità che sua madre aborriva ugualmente. E neppure vi sarebbe riuscita Charlotte. Gli onori della giornata spettarono al signor Bibb. Mediante il suo tatto, il suo buon senso e mediante il suo prestigio di sacerdote, giacché un sacerdote che non fosse sciocco influenzava considerevolmente la signora Honeychurch, la piegò al loro volere. Il signor Bibb aprì la porta del salotto e udì le parole di una canzone. «Il bello tenta e tu gira la testa». Non sapevo che la signorina Honeychurch cantasse, oltre a suonare. «Si armano i regni e tu placido resta, luccica il vino e tu spandilo in terra». Questa canzone gliel'ha regalata Cecil. Come sono strambe le ragazze. «Che cosa c'è?» gridò Lucy, interrompendosi improvvisamente. «Sta tranquilla, cara», disse affabilmente la signora Honeychurch. Entrò in salotto e il signor Bibb la sentì che baciava Lucy e proseguiva. «Scusami se mi sono tanto stizzita per via della Grecia, ma ero già fuori di me ed è stato il colmo dopo l'incidente delle dalie». Una voce burbera rispose: «Grazie, mamma, non ha la minima importanza. E poi hai ragione tu. Trovo giusta la soluzione della Grecia. Se le signorine Alan sono disposte a portartici, baci pure. Oh, che bellezza! Grazie!» Il signor Bibb entrò in salotto a sua volta. Lucy era sempre seduta al pianoforte con le mani sulla tastiera. Appariva contenta, ma lui si era aspettato una maggiore contentezza. La madre si chinò sulla figlia. Freddy, per il quale Lucy stava cantando fino a un momento prima, si distese sul pavimento con il capo appoggiato alla sorella e la pipa ancora da accendere fra le labbra. Strano a dirsi, il gruppo era armonioso. «Luccica il vino e tu spandilo in terra, la gente ascolta e tu le labbra serra», continuò la ragazza. «C'è il signor Bibb. Il signor Bibb è abituato alle mie manieracce». «È una canzone bella e saggia», disse il reverendo. «Vada avanti». «Non vale un granché», rispose Lucy con voce apatica. «Non so più da cosa dipenda, se dall'armonia o da altro. Sospettavo che non fosse frutto di erudizione. È così bella». «Il motivo non è niente male», disse Freddy. «Ma le parole sono cretine. Perché gettare la spugna?» «Che discorsi stupidi fai», ribatté la sorella. La santa conversazione era naufragata. Dopotutto, rifletté il signor Bibb, non c'era ragione che Lucy parlasse della Grecia o che lo ringraziasse per aver convinto sua madre, e quindi si accomiatò. Sotto il portico Freddy gli accese il fanale della bicicletta e con la sua solita felicità di espressione disse: «Quella di oggi è stata una giornata da bestie. Mi piace questo tempaccio». Il signor Bib lo affrontò. I due fatti essenziali erano chiari. Lucy si era comportata splendidamente e lui l'aveva aiutata. Non poteva pretendere di sviscerare i particolari di un cambiamento così radicale nella vita di una ragazza. Se questo o quel punto lo lasciavano insoddisfatto o perplesso, doveva rassegnarsi. Lucy stava scegliendo il miglior partito. Cuore, occhio e mano, che sgombri saranno? Forse la canzone proponeva il miglior partito, un po' troppo energicamente. Il signor Bib ebbe l'illusione che l'accompagnamento spiegato, era in grado di udirlo nell'urlo della bufera, fosse in effetti d'accordo con Freddy e stesse criticando blandamente le parole che ornava. Cuore e occhio, mano che sgombri saranno, facile vita e quieta morte avranno. Comunque, per la quarta volta, Windy Corner si bilanciava sotto di lui, ora simile a un faro nelle ondate ruggenti del buio. Le signorine Alan furono trovate nel loro albergo prediletto vicino a Bloomsbury, un edificio pulito, mal ventilato, dove erano bandite le bevande alcoliche, che vantava una vasta clientela nell'ambito dell'Inghilterra provinciale. Le due sorelle si annidavano sempre in quell'asilo prima di attraversare i grandi mari e durante un paio di settimane si prendevano dolce affanno per vestiti, guide turistiche, quadrati impermeabili, pane digestivo e altri articoli continentali di prima necessità. Il sospetto che ci fossero dei negozi all'estero, perfino ad Atene, non sfiorava mai le loro menti, giacché consideravano il viaggio una sorta di stato di belligeranza, nel quale potessero impegnarsi unicamente coloro che si erano armati di tutto punto nei grandi magazzini di Haymarket. Confidavano, dissero, che la signorina Honeychurch avrebbe avuto cura di equipaggiarsi a dovere. Ora era possibile acquistare il chinino in compresse. Il sapone di carta si rivelava prezioso in treno per chi volesse rinfrescarsi la faccia. Lucy, leggermente depressa, promise di attenersi alle loro raccomandazioni. Ma tutte queste cose lei le sa già, naturalmente, e può contare sull'aiuto del signor Wise. Un uomo è un tale appoggio. La signora Honeychurch, che era venuta a Londra con sua figlia, si mise a tamburellare nervosamente sul portabiglietti. «Troviamo così bello da parte del signor Wise rassegnarsi alla sua lontananza», continuò la signorina Catherine. «Non tutti i giovani darebbero una simile prova di altruismo. Forse però egli conta raggiungerla in seguito». «Oppure è trattenuto a Londra dal lavoro?» chiese la signorina Teresa, la più perspicace e la meno caritatevole delle due sorelle. «Comunque lo vedremo quando verrà a salutarla alla partenza. Ho proprio una gran voglia di vederlo». «Nessuno verrà a salutare Lucy alla partenza», si intromise la signora Honeychurch. «A lei non piace». «Infatti detesto gli addii», confermò Lucy. «Davvero? Com'è strano. Avrei creduto che in questo caso...» «Oh, signora Honeychurch, non vorrà mica andare via. È stato un vero piacere averla conosciuta». Madre e figlia presero la fuga e Lucy disse con sollievo: «Meno male, finalmente ci siamo liberati di questa seccatura». La signora Honeychurch, tuttavia, era irritata. «Mi si obietterà, carina, che sono insensibile, ma non riesco a capire perché non hai detto alle tue amiche come stavano le cose con Cecil e Buonanotte. Per tutto il tempo siamo state costrette a fare schermaglie, ci è mancato poco che non dovessimo spacciare qualche bugia e che venissimo smascherate anche, e questo secondo me è sgradevolissimo». Lucy non era accorto di argomenti con cui confutare le parole materne. Descrisse il carattere delle signorine Alan. Erano due linguacciute terribili, e a dar loro la notizia si poteva stare certi che l'avrebbero sparsa in un lampo ai quattro venti. «Ma perché non si dovrebbe spargerla in un lampo ai quattro venti?» «Perché ho stabilito con Cecil di non divulgarla finché non fossi partita dall'Inghilterra. Alle signorine Alan lo dirò in viaggio, sarà molto meno antipatico. Dio, che pioggia! Rifugiamoci qui dentro». Qui dentro era il British Museum. La signora Honeychurch bocciò la proposta. Se dovevano mettersi al riparo, fosse almeno in un negozio. Lucy si mostrò di umore sprezzante, poiché si era prefissa di concentrare il suo interesse sulla scultura greca e aveva già ottenuto in prestito dal signor Bib un dizionario mitologico per fare l'orecchio ai nomi delle divinità di ambo i sessi. «E sta bene, vada per il negozio. Entriamo da Moody, comprerò una guida». «Sai, Lucy, tu e Charlotte e il signor Bib mi date tutti della stupida e quindi si vede che lo sono, ma non capirò mai questi maneggi clandestini». Ti sei tolta di torno Cecil. Brava, bravissima. E a me non pare vero che lui abbia infilato l'uscio, anche se lì per lì me la sono presa parecchio. Ma perché non dare l'annuncio? A che scopo cucirsi la bocca e andare coi piedi di piombo? È solo per pochi giorni, disse Lucy. Ma perché, insomma? Lucy tacque. Si stava estraniando da sua madre. Sarebbe stato facilissimo dire «Perché George Emerson mi ha molestata e se viene a sapere che ho rotto con Cecil, rischiamo che ricominci». Facilissimo. E aveva il vantaggio incidentale di essere vero. Ma Lucy era incapace di dirlo. Rifuggiva dalle confidenze poiché possono condurre alla conoscenza di noi stessi e a quella regina dei terrori che è la luce. Sempre dopo quell'ultima sera a Firenze giudicava imprudente rivelare l'anima sua. Siccome nel caso della signora Honeychurch i pensieri non rimanevano mai inespressi a lungo, essa sbottò: «Windy Corner, ti è venuto a noia». Verità sacrosanta. Lucy aveva sperato di ritornare a Windy Corner dopo essere fuggita da Cecil, ma si era accorta che la sua dimora non esisteva più. Poteva esistere per Freddy, che viveva e pensava tuttora correttamente, ma non per chi si era guastato di proposito il cervello. E Lucy non ammetteva che il suo cervello fosse guasto, perché appunto il cervello deve contribuire a compiere questa ammissione, mentre lei stava scompigliando gli strumenti medesimi della vita. Arrivava soltanto a dirsi: «Io non amo George. Ho rotto il fidanzamento perché non amavo George. Devo andare in Grecia perché non amo George». Per me è più importante cercare gli dèi sul dizionario che aiutare mia madre. Tutti gli altri si stanno comportando malissimo. Si sentiva soltanto irascibile e petulante e ansiosa di fare cose che nessuno si aspettava che facesse e in un simile stato d'animo proseguì la conversazione. «Oh, mamma, che sciocchezze ti passano per la testa! Naturale che Windy Corner mi è venuto a noia. Perché dunque non l'hai detto subito, invece di ponderarci sopra mezz'ora?» fece la madre. Lucy uscì in una fiacca risata. «Mezzo minuto mi sembra più esatto. Forse preferiresti allontanarti definitivamente da casa tua? Zitta, mamma, ti farai sentire da tutti». Erano entrate da Moody. Lucy comprò il Baedeker, quindi soggiunse: «Naturale che voglio vivere in casa mia, ma già che ne stiamo parlando, tanto vale che ti dica che d'ora in poi desidero assentarmi più spesso di come ho fatto finora. Tieni presente che l'anno venturo potrò disporre del mio denaro». Alla madre salirono le lacrime agli occhi. Sotto la spinta di uno smarrimento ignoto, di ciò che nelle persone più anziane di lei si suol definire eccentricità, Lucy risolse di chiarire bene questo punto. «Ho visto così poco del mondo. In Italia mi sentivo così esclusa dalle cose. Ho visto così poco della vita, bisognerebbe venire a Londra più spesso, ma non con un biglietto di andata e ritorno come oggi, ma per fermarcisi. Potrei perfino dividere provvisoriamente un appartamento con un'altra ragazza». «Benone», fece la madre, «pigliati la tua indipendenza e vattene. Corri su e giù per il mondo e fanne il giro e torna secca come un chiodo a forza di cibarti di robaccia. Disprezza la casa che costruì tuo padre, il giardino che lui piantò e la nostra cara veduta, e poi installati in un appartamento d'affitto con un'altra ragazza». Lucy storse la bocca e disse: «Forse ho parlato troppo in fretta». «Oh, misericordia!» scattò sua madre. «Come mi ricordi Charlotte Bartlett?» «Charlotte!» scattò Lucy a sua volta, trafitta finalmente da una vivida pena. «Sempre di più, ogni momento che passa!» «Non capisco cosa intendi dire, mamma. Charlotte e io non ci somigliamo neanche un po'». «Beh, la somiglianza la vedo io. Lo stesso crucciarsi in perpetuo, lo stesso rimangiarsi quel che si è detto. Ier sera, tu e Charlotte, che tentavate di spartire due mele fra tre persone, avreste potuto essere sorelle». «Ma che stupidaggini! È dal momento che hai tanta antipatia per Charlotte. Peccato che tu l'abbia invitata a stare da noi». «Io ti avevo avvertita, mamma, ti avevo supplicata di non farlo, ma naturalmente non è servito a nulla». «Oh, ci risiamo, Lucy, sarebbe dire, mamma, da capo Charlotte, carina mia, tutta lei, le sue testuali parole». Lucy strinse i denti. «Continuo a sostenere che non avresti dovuto invitare Charlotte e ti pregherei di non divagare», e la conversazione degenerò in un litigio. Lucy e sua madre fecero i loro acquisti in silenzio. Parlarono poco in treno e poco anche nella carrozza che le attendeva alla stazione di Dorking. La pioggia era scrosciata tutto il giorno e mentre risalivano i fondi sentieri del Surrey, improvvisi rovesci cadevano dalle chiome dei faggi e tamboreggiavano sul mantice. Lucy si lagnò del senso di oppressione che le dava il mantice e, sporgendosi avanti, scrutò il crepuscolo saturo di vapori e vide il fanale della carrozza che sorvolava come un riflettore la fanghiglia e le foglie senza rivelare niente di bello. «Quando entrerà anche Charlotte staremo pigiate orribilmente», osservò Lucy. «Dovevano infatti passare a prendere la signorina Bartlett a Summer Street, dove l'avevano lasciata all'andata perché facesse visita alla vecchia madre del signor Bibb. Ci toccherà sederci tutte e tre dalla stessa parte perché gli alberi sgocciolano e pure ha smesso di piovere. Ah, non so cosa darei per avere un filo d'aria». Poi Lucy ascoltò il rumore degli zoccoli dei cavalli. «Lui non l'ha detto, lui non l'ha detto». La melodia era attutita dal terreno molliccio. «Non possiamo tirar giù il mantice?» domandò. E sua madre, con tenerezza subitanea, rispose: «Ma certo, madamigella, fermiamo il cavallo». E fu fermato il cavallo, e Lucy e Powell armeggiarono attorno al mantice e annaffiarono il collo della signora Honeychurch. Ora però che il mantice era calato, Lucy notò un particolare che altrimenti le sarebbe sfuggito. Non c'era luce alle finestre di Villa Sissi, e le parve inoltre di vedere che il cancello era chiuso con un lucchetto. «Powell è di nuovo da affittare quella casa?» gridò. «Sì, signorina. Se ne sono andati?» «Era troppo lontana dalla città per il signore giovane, e al vecchio sono capitati i reumatismi, e allora non può restarci tutto solo, e allora cercano di affittarla a mobiliata», fu la risposta. «Sono partiti, insomma?» «Sì, signorina, sono partiti». Lucy ricadde indietro sul sedile. La carrozza si fermò al rettorato e lei scese per chiamare la signorina Bartlett. Dunque gli Emerson se n'erano andati e tutto il grande affare che si era data per la Grecia risultava superfluo. Spreco! Sembrava che in quella parola si assommasse la vita intera. Progetti sprecati, soldi sprecati, amore sprecato e per di più aveva ferito sua madre. Possibile che avesse dilapidato tanto così alla cieca? Possibilissimo. Altri lo avevano fatto. Quando la cameriera aprì la porta, non le riuscì di parlare e sbarrò stupidamente gli occhi nell'ingresso. La signorina Bartlett venne subito avanti e, dopo un lungo preambolo, chiese un immenso favore. Poteva andare in chiesa? Il signor Bibb e sua madre l'avevano preceduta, ma lei si era rifiutata di muoversi finché non avesse ottenuto il pieno beneplacito della sua ospite, giacché si sarebbe reso necessario fare aspettare il cavallo altri 10 minuti buoni. «Ma certo», rispose stancamente la sua ospite, «dimenticavo che è venerdì. Andiamoci tutte e tre. Powell può girare dietro la casa e attenderci in scuderia». «Carissima Lucy, no, grazie, rinuncio alla chiesa, io». Un sospiro e si separarono. La chiesa era invisibile, ma a una certa altezza sulla sinistra una traccia di colore spiccava nel buio. Era una vetrata dipinta attraverso la quale scintillava una luce fioca, e quando la porta si aprì, giunse a Lucy la voce del signor Bibb che snocciolava la litania a una sparuta congregazione. Perfino la loro chiesa, costruita così ingegnosamente sul pendio, col suo bel transetto rialzato e la sua guglia argentea, perfino la loro chiesa aveva smarrito il proprio fascino, e la cosa di cui non si parlava mai, la religione, si andava dileguando nella scia di tutte le altre cose. Le fu chiesto se aveva niente in contrario ad accomodarsi nello studio del signor Bibb. Era la sola stanza con il camino acceso. Rispose che non aveva niente in contrario. Nello studio c'era già qualcuno, poiché Lucy udì le parole «C'è una signorina che deve aspettare». Il signor Emerson sedeva davanti al fuoco con un piede appoggiato su un panchetto. «Oh, signorina Honeychurch, che lei sia venuta!» tremolò la voce del vecchio, e Lucy notò l'alterazione del suo volto dall'ultima volta che lo aveva visto la domenica scorsa. Non ci fu verso che una parola le venisse alle labbra. A Giorgio aveva tenuto testa e avrebbe potuto tenergli testa di nuovo, ma non sapeva più come trattare suo padre. «Signorina Honeychurch, cara, siamo così spiacenti. Giorgio è così spiacente. Ha creduto di avere il diritto di tentare. Non posso biasimare il mio ragazzo e tuttavia deploro che non l'abbia detto prima a me. Non doveva tentare. Io ero all'oscuro di tutto». Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it.